In camera sua, con gli occhi spalancati, Zazà sente i passi un po' pesanti di Maurice che torna al suo letto nel dormitorio dei bambini. Non sono quei passi sopra la sua testa che l'hanno svegliata. Non dormiva. Non dorme mai nell'ora in cui Maurice scende per bere da solo, ma fa sempre finta. Sente i passi, ma non li ascolta. Ascolta il suo ventre con le mani, cerca di immaginare in che modo risuonino e vibrino dentro di lei le onde leggere, circolari e vagamente dolorose, che accoglie regolarmente nelle viscere non appena sdraiata. Non dà un nome a ciò che per ora si muove appena. Prima che si muovesse non lo chiamava neanche il bambino. Un bambino, dei bambini sono gli altri, lassù, Lulù, Marcus, Louis, Fredo, Danie, Dedé. Quello, lei prima l'ha chiamato ritardo, poi angoscia e infine panico. Tutte le vecchie ricette così compiacentemente enumerate, soppesate e confrontate dalle ragazze nude in tempi passati, intorno alla cesta della biancheria di Bruno, in Rue de la Mar, le sono allora tornate in mente. Ha provato il latte bollente con il pepe, in mancanza di zafferano, e i pediluvi nell'acqua caldissima, il che ha fatto ridere i bambini e incuriosito Maurice. Non ha ottenuto altro effetto che farla vomitare. Allora ha detto a Maurice che era incinta. Lui ha detto: «Lasciate che i pargoli vengano a me», guardando il crocifisso sopra la cucina. Non ha detto niente a Laurent, non gliel'ha neanche scritto, ma sa esattamente quando nascerà il suo bambino. Laurent è venuto a farglielo fare il 3 dicembre, per tutta una notte, poiché non ha passato che una notte accanto a lei, quella volta, la nona in 2 anni. Per la nona volta è venuto e poi è rivenuto, come aveva promesso sul marciapiede della stazione, quando lei singhiozzava perché non ci credeva, è venuto e ogni volta lei si meravigliava, pur dicendosi ogni volta che forse era l'ultima. Non gli ha detto niente perché se Laurent dovesse tornare una decima volta, vorrebbe essere sicura che è proprio per lei sola. Come un amante che non può fare a meno di precipitarsi a raggiungere la donna che ama, sia pure per una sola notte, non come il padre di un bambino di cui non starebbe bene abbandonare la madre. Sa che aspetta per settembre un figlio di Laurent e che aspettandolo accanto a lei, Maurice lo chiama Valodia. Perché Valodia? Non ricorda più molto bene, non ha mai osato confessarlo a Maurice. Avrebbe dovuto farlo tanto tempo fa, dopo che uscì dalla Salpêtrière, quando si divisero la cornice dei nostri e lui ci tenne a prendersi la piccola foto del bello sfregiato di cui lei aveva dimenticato la storia. Ma probabilmente a quell'epoca era già troppo tardi per confessarlo. L'aveva ben sentito dal modo in cui Maurice si era quasi scusato di accaparrare le vestigia di un dramma che sarebbe dovuto appartenere a tutti e due. Sa che c'è una vecchia storia di Valodia, molto lunga, molto triste e molto complicata. Sa anche dove, in che giorno e a che ora Maurice l'ha raccontata e perché lei l'ha ascoltata tanto poco quel 10 novembre da Cheramy verso le 10 di sera. Lo sa perché era stato nel pomeriggio di quel 10 novembre che lei aveva fatto l'amore per la prima volta in vita sua, su un gran letto basso, nella semipenombra di una camera con le tende rosse verso cui allora non sognava che di tornare per ricominciare a fare l'amore con quello che l'aveva violentata, come aveva detto lui, con tutta la tenerezza del mondo. Non aver paura, amore mio, ora ti violento. Ecco che cosa le aveva detto Laurent. Ed era a quello che stava ripensando proprio mentre Maurice raccontava da Cheramy quella storia che non aveva ascoltato. Sa che la storia cominciava con Puepue, perché più tardi nel gran letto Laurent le dice che avrebbe voluto incontrarla quando aveva 5 anni e ha fatto un'altra volta l'amore, carezzandola come si carezza una bambina. Sa che erano talmente pazzi, così pazzamente felici, che sono perfino arrivati a dire grazie a Hitler che non l'aveva lasciata partire, lei, Zazà, per la Germania insieme a Mimì. Sa che è tornata a Casabonnet all'alba, nella macchina di Laurent, e che attraversando Parigi, deserta e imbandierata, Laurent le ha detto che era per loro che avevano messo le bandiere dappertutto. Sa che la luce si è accesa al terzo piano dalla vecchia Löwenthal, quando Laurent ha fermato la macchina davanti a casa, poi ha spento il motore e loro non riuscivano a rassegnarsi all'idea di lasciarsi. Sa che la mattina è uscita di casa prima di mezzogiorno, adducendo un qualche pretesto, e che non ha aspettato Maurice, il quale per una volta doveva venire a pranzo. Si ricorda di tutto, del gesto di Alex per rimettere una forcina nei capelli di Angelina Crespi, un po' vecchia nel pullover di Alex, nel momento in cui Laurent, con la mano posata sulla sua spalla, preme leggermente le dita per dirle che vuole tornare con lei in camera, ora, subito, e che neanche lui ascolta quella storia che non finisce più. Si ricorda di tutto, salvo della storia di Valodia che non finiva più. Il che sembra inconfessabile, oggi più che mai, e quando Maurice chiama il bambino Valodia fa finta di sapere perché e lo lascia dire. Dopotutto, perché non Valodia? È carino, Valodia. Trova solo che è un po' troppo presto per chiamare per nome un bambino a cui non si è ancora trovato un cognome. Ieri l'altro l'ha detto a Maurice ridendo. Ancora una volta ha preso il Cristo di pietra a testimone. Ha detto che i carpentieri non avevano proprio fortuna con le ragazze per bene, che gli portavano sempre a casa dei bambini che non erano i loro. E ha proposto Gesù come cognome per Valodia. Troppo ebreo, ha risposto Zazà. Ancora troppo ebreo per la stagione, certo, ma siamo solo in aprile. Aspetti settembre, signorina Roux. Ma io non faccio altro, signor Gautier Berthier. Appunto, lei non fa altro invece di imparare a leggere l'avvenire nelle costellazioni come faccio io da quando lavoro con gli astri. Se avesse visto settembre come l'ho visto io, e ora so. Si era rammaricato che non potesse salire nella torre per leggere settembre con lui negli astri, ma nel suo stato interessante le sconsigliava formalmente le scalate sulle impalcature. Per il nome, in settembre dirà quello che sa. Il bambino che nascerà dalla signorina Roux nel settembre 44 sarà autorizzato a chiamarsi come ci parrà, ed è questa la grande novità che ha letto nell'orsa minore. Si potrà ancora e sempre chiamarlo Roux, se per caso la giovane mamma desidera conservare il suo bel nome di guerra. Si potrà anche chiamarlo Verdon, se per caso il suo giovane papà riconosce il bambino all'angolo di un giardino. Ma soprattutto, e prima di tutto, potrà chiamarsi Roginski. E Roginski Vladimir, mi creda, piacerà enormemente quest'autunno. Roginski è polacco, ma farà russo e i russi avranno vinto la guerra. Evidentemente Vladimir Verdon Roginski sarebbe l'ideale, a condizione di pronunciare Verdon con l'accento americano, perché anche gli americani avranno vinto la guerra. Dunque, Verdon, Vladimir Roginski Verdon, che classe! Avrà un certo che di Pierre Richard Wilmes in Troika nel Colorado. Un po' pesante da portarsi per un neonato. Lei non trova, signor Gautier Berthier? Ha detto Zazà. Assolutamente, assolutamente, e perciò lo chiameremo subito Valodia. È leggero, fa ballerino. Ballerino forse, ma non ballerina. Ah, oh, se lei complica le cose, signorina Roux, non ha che da chiamarlo con ciò sia cosa che. Io dico come posso, ha dichiarato Maurice a Zazà, prima di baciare la sua bocca chiusa tutta umida di lacrime da ridere. Era stato 2 sere prima. Stavano bevendo il tè dopo aver messo a letto i bambini. Maurice ha versato appena un goccio di acquavite nella sua ciotola e dopo non è ridisceso per bere da solo. Stasera deve aver liquidato tutta la bottiglia di Marcel come ogni volta che è infelice. Domani non gli chiederà niente. Lei dirà che ha dormito bene, lui dirà anch'io e lei non saprà perché era così triste la sera prima, mentre era così allegro 2 sere prima. Non allegro, spassoso, semmai. Perché era lei che era triste quella sera. È in questo modo che vengono a compromesso con la vita da 2 anni. Ed è bene così. Se lui pensa alle ragazze non gliene parla e lei non gli dice che all'ospedale, quando era come morto, non le hanno nascosto a lei che per un bel pezzo non avrebbe più potuto avere donne. Se pensa a Robert che se n'è andato senza di lui, lei non gli dice che pensa spesso ad Alex e Angelina, laggiù in America, con i quali lei e Laurent sarebbero potuti partire. Quando erano ancora in tempo, avevano scelto di rimanere. Lei per essere accanto a lui che tornava al mondo, Laurent per essere accanto a lei. Se pensa a quello che ha fatto a Parigi, prima di venire a raggiungerla qui, lei non gli dice che crede a un colpo ebreo, talmente grave che preferisce non saperne niente, in modo da essere nell'impossibilità di poterlo mai rivelare. Infelici insieme, lo saranno stati una volta sola, da morire insieme. Era a Châteauroux. Felici insieme lo sono spesso, in fin dei conti, a causa dei bambini, a causa del colpo ebreo di lei, di quello almeno possono parlare tra di loro. Però stasera ha fatto male a fargli vedere il disegno di Lulu. Lei è sicura che è di Lulu, anche se si è fatta scrivere mamma da un grande. Tutte quelle M vogliono dire Miriam. La stella era così vistosa sul golf e lui ha fatto male a riparlare di far scrivere le lettere ai bambini. Domani scriveranno tutto quello che vorranno sui loro quaderni, delle aste se gli gira e anche delle sciocchezze. E lei ritirerà i quaderni, li correggerà e darà i voti e così per una volta riceveranno delle vere risposte alle loro pagine di scrittura, che per una volta non saranno costretti a cominciare con caro papà, cara mamma. Finito il cerimoniale delle buone notizie lanciate in mare dall'alto di una montagna. Domani dirà: nessuna nuova buona nuova, come si diceva a casa loro in Rue de la Mare quando erano piccoli. Era soprattutto papà Gutmann a dirlo, spesso anche, molto più spesso di suo padre. Diceva: nessuna nuova buona nuova, e a volte aggiungeva: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E questo infastidiva Sonia, che guardava Olga e sospiravano insieme. No. No, non era proprio così. Papà Gutmann diceva nessuna nuova buona nuova ed era Sonia che diceva lontano dagli occhi, lontano dal cuore, alzando le spalle. E lui, con il suo bel sorriso un po' triste, la riprendeva e diceva: no, Sonia, lontano dagli occhi, ma forse vicino al cuore. Oppure sempre vicino al cuore. O ancora vicino al cuore, o qualcosa del genere. E Stepana sentiva, poi smettevano di parlare perché lei o Maurice stavano arrivando. Com'erano teneri e disarmati tutti e quattro con i loro piccoli segreti così ben condivisi e così ben mantenuti. Se si desse retta, salirebbe ad abbracciare Maurice nel sonno, ma non si dà retta, non vuole svegliare i bambini. Il suo, a quanto pare, sta già dormendo, non manda più messaggi, può addormentarsi con lui. A proposito di messaggi, le piacerebbe riceverne dal suo amante un po' prima di settembre. Domani dovrà chiedere a Maurice se si ricorda. Dopo lontano dagli occhi era forse sempre o ancora vicino al cuore. Sarà un gioco e si vedrà chi dei due ha buona memoria. Si sarebbe dovuto dire banalmente lontano dal cuore. Il bambino di Zazà ha già 8 mesi e non si chiama Valodia, si chiama Marina, Marina Verdon, e la sua mamma Elsa Roginski. È nata proprio in settembre, un 15 settembre 1944, alla fine di una giornata piovosa, un September in the Rain, come sussurrava Maurice a Zazà per farla ridere tra due doloretti nel taxi che la portava alla maternità dell'Hôtel Dieu. Suo padre non l'ha riconosciuta all'angolo di un giardino, ma del tutto civilmente al municipio del primo distretto di Parigi. Sua madre, invece, non è voluta andare a quello del settimo distretto per diventare la signora Verdon. Stranamente, non ci sono stati drammi né vittime. Era, semmai, un caso di disamore reciproco che li aveva colti insieme dopo un ritrovarsi troppo tardivo. Non si amavano più. Ma si volevano sempre bene, avevano perfino continuato a coabitare, solo che nella camera con le tende rosse c'era Marina che dormiva accanto a Zazà. Laurent dormiva nel suo studio quando c'era, il che non gli capitava tutte le sere. Marina, Maurice, la chiama Valodiana, ma per sé solo, o meglio la chiamava Valodiana, per molto tempo non la chiamerà affatto. È partita con sua madre per l'America, per Hollywood esattamente. È stato deciso una notte, dopo un'interminabile, probabilmente esorbitante, comunicazione telefonica intercontinentale, la cui suoneria, verso le 2 del mattino, aveva dapprima svegliato Laurent, poi Zazà e infine Marina. La voce di Alex arrivava e ripartiva a ondate per dire a Zazà di andare a lavorare con lui, Angelina Crespi e i loro partners, come al tennis. La voce di Angelina Crespi era succeduta a quella di Alex per ripetere esattamente la stessa cosa. Poi un'altra voce, quella completamente sconosciuta, si era impadronita della linea giusto il tempo di gorgheggiare che moriva dalla voglia di spupazzarsi la baby. Poi era tornata quella di Alex, incalzante, precisa, le mandava i soldi del viaggio, che arrivassero svelte lei e la bambina. Laurent aveva il secondo ricevitore e faceva cenno a Zazà di accettare. «Verrò a trovarvi laggiù, tutte e due», le mormorò quando Zazà ebbe riattaccato dopo aver detto di sì ad Alex, Angelina Crespi and Partners. Ha sghignazzato un po' quando ha capito, dalle lettere di Alex, chi fosse quella partner così impaziente di coccolare la baby di una madre che non aveva mai conosciuta, né piccina né grande, e di cui sembrava avere ignorato che avesse a sua volta una madre. Ciò nonostante Zazà era partita, ora come ora sta navigando sui flutti azzurri. Lavorerà appena arriva, aspettano i suoi consigli per fare senza errori, in maniera autentica e realista, i costumi di un gran film sulla miseria dei reprobi nella Francia occupata. Reprobi alla cui causa parrebbe che la partner di Alex e di Angelina Crespi si sia votata anima e corpo e senza sosta e da Hollywood durante gli anni terribili. Un biglietto da visita color salmone, accluso alla lettera di Alex, portava effettivamente stampato in prugna che Vicky Rogin era la chairman della FJBHAS, French Jewish Beating Hearts Association. Sigla assolutamente sconvolgente, che Zazà aveva semplicemente tradotto con cuori di ebrei battuti dai francesi. Finché morisse, non ebbe corretto la sua versione. Secondo lui erano i battiti di cuore degli ebrei di Francia. Oppure, a regola, si doveva intendere gli ebrei di Francia con il batticuore. E, per evitarle in avvenire ogni barbarismo e altri incresciosi errori di interpretazione, aveva addirittura cercato per lei, da Gibert, una edizione esaurita di Alice Family, che la pregò di ripassare durante il viaggio. Nei bagagli, a parte i poppatoi e i vari pannolini, senza dimenticare Alice Family, Zazà non si è portata quasi niente. Laggiù si trova tutto, anche quello che qui non si trova ancora. Tutto, tranne un coso che Alex le ha chiesto di portargli e che lei è andata a prendere in Rue Campagne Première, dove l'aveva lasciato prima della sua partenza nel 40. È un grande uovo di Pasqua, semplicissimo, di smalto color champagne, con una levetta di rubino che a suon di musica si apre in quattro come un'arancia. Molto bello, un po' fragile da trasportarsi forse, benché di viaggi debba averne conosciuti ben altri, quell'uovo. In vetture, pullman, nell'Oriente Express, in Troica e nella Transiberiana. Non c'è nessuna ragione perché non sopporti il rullio e il beccheggio a bordo di un transatlantico, soprattutto fasciato com'è, tra pezze e mutandine, e saldamente piazzato in mezzo al borsone di cuoio fulvo che Laurent ha regalato a Zazà per la traversata. Erano proprio carine, in bianco tutte e due, a poppa del City of New York, la bambina tra le braccia della madre. Per avere una mano libera, Zazà aveva deposto ai suoi piedi l'elegante fagotto e agitava dolcemente il braccino della figlioletta verso i due uomini che stava lasciando, sorridendo. Piantando, aveva detto Laurent al ritorno, nella macchina che aveva guidato a velocità eccessiva tra Le Havre e Parigi. Abbandonando, pensava Maurice, ma lasciò che Laurent dicesse a modo suo. Laurent è Laurent, lui è lui. Lui non parte. Prima di tutto perché ha l'impressione di essere appena arrivato, perfino dopo 10 mesi. Tutti i giorni gli sembra di essere tornato solo il giorno prima da un viaggio durato 20 anni, in un paese immaginario e candido, del candore della sua camera d'ospedale, come tutti quanti, ha fatto indigestione di rumori, di luci, di balli, di kermesse, di caroselli. Come certuni si è stupito che si ballasse tanto la notte dopo aver tanto pianto ufficialmente i morti nella giornata. I morti censiti, per piangere gli altri si aspetta ancora, si aspetta di sapere. Si saprà. Cominciano a tornare a gruppi e a convogli, in veri vagoni viaggiatori, ma mescolati come erano, partendo nei loro carri bestiame. Se l'amico di Marcel lo vedesse, pensa Maurice, direbbe che è il casino che continua. Per riconoscerli nel centro di raccolta non basta cercare tra la folla un viso familiare. Bisogna scrutarli tutti, a uno, ma soprattutto bisogna farsi vedere per essere riconosciuti da quelli che sono diventati irriconoscibili. Villeneuve lo era, a tal punto che ha dovuto dire 2 volte: Buongiorno Gutmann, sono io, perché Maurice prendesse e stringesse infine tra le braccia quel gigante rapato e scheletrito che lo guardava ridendo senza i denti davanti. Da allora Maurice è tornato quasi tutti i giorni verso mezzogiorno ad aspettare l'arrivo degli autobus e delle corriere, ma ha un suo metodo. Invece di perdersi tra quelli che ostruiscono l'ingresso dell'Hotel Lutezia, Sale sulla panchina che è di fronte, sul terrapieno. Si siede sulla spalliera, con i piedi sul sedile, e si fa vedere mentre insieme osserva. A volte, quando ha un'esitazione, si drizza decisamente in piedi prima di scendere, di lanciarsi a spintoni tra la gente, poi di fermarsi al momento di toccare la spalla o la scapola sporgente come una carena sotto il pigiama a righe o la giacca della Croce Rossa di un estraneo che non è Samì, che non è nessuno degli altri che attende. Ma è ancora troppo presto per dire che non torneranno, salvo per il cecoslovacco o bulgaro, l'amico di Samì. Di lui si sa, non è mai partito, l'hanno fucilato prima. Tra gli arrivi dei convogli, Maurice si siede sul sedile per tenere il posto. La conosce bene quella panchina. Adesso ha tutto il tempo per decifrare i graffiti che scopre a poco sotto la patina. Piazzate come sono tra la prigione del Cherche Midi e il Grand Hotel Lutezia, quelle doppie panchine di quercia verde sono servite da rifugio per tutte le attese in questi ultimi decenni, passando le dita sulle iniziali e i cuori intrecciati, le date e i diminutivi a un morte ai incompiuto. Maurice si rammarica di non averci lasciato una tacca con il temperino ai tempi in cui si nascondeva, seduto nell'oscurità. Per sorvegliare, spiare, verificare gli orari, individuare e cronometrare i tragitti abituali dei quattro ucraini della Gestapo dell'Lutezia. Aveva troppa paura a quell'epoca per pensare a fare delle tacche su una panchina, ma è un peccato, pensa. Le incisioni sul legno durano più dei graffi sulla pelle di una mano, anche se gli si affibbia il nome di cicatrice. Sono mesi che non guarda più la sua, perché sono mesi che non si guarda più dentro le mani, da quando si è rimesso a lavorare con la testa e le sue mani si sono messe di nuovo a toccare dei libri. Ma lì, su quella panchina, dove non ha lasciato una tacca, apre la mano sinistra e sotto il bel sole di maggio ricompare il leggero brillio visibile come non molto tempo fa sotto la brutta lampada del convento. Ieri Miriam è venuta ad aspettare con lui. Lei non è mai stata presa, ha vissuto dappertutto dopo l'arresto di Samia alla fine del 43. Durante le ultime settimane, rintanata nell'orribile cantina sotto le campane di Notre Dame. Per gli ucraini hanno saputo i risultati subito, già l'indomani mattina. Tre sono morti e ha anche detto i loro nomi a Maurice, che non li ha tenuti a mente. Lavora come segretaria nell'organizzazione dei suoi compagni. Da quando ha recuperato Lulu abitano tutte e due nel laboratorio di Alex. Sarà comodo per Samy, è vicinissimo a Cochin. Non dice a Lulu che aspetta suo padre e tutti i suoi parenti. Lulu del resto non parla mai di suo padre. Lei vuole tornare nella montagna di Miradore Mirliflor. Dédé, Marcus, Louis, Fredo e Dany sono in un pensionato in Svizzera con altri bambini. Probabilmente non dicono loro le stesse menzogne e le stesse verità che dicevano lui e Zazà, gliene dicono altre. Maurice pensa spesso a loro, gli mancano, ma l'organizzazione non desidera le sue visite ritenute traumatiche e glielo ha fatto sapere molto cortesemente per iscritto. Eppure, era il solo viaggio che Maurice avrebbe fatto volentieri, una domenica, per esempio, con Lulu. In settimana ha troppo lavoro in libreria. È lui a farla andare avanti con la signora Villeneuve e il maggiore dei ragazzi. Ma da quando Villeneuve è tornato, la moglie non si occupa più che di lui lassù nell'appartamento. Si rimette molto lentamente. Sorride, ride, mettendosi la mano davanti alla bocca forata, mangia un po', dorme male e non racconta niente. All'ora di pranzo, Maurice chiude il negozio e se ne va a piedi fino all'Utezia. L'altro giorno si è comprato un panino al Dragon. È nuovissimo, dentro e fuori. I padroni sono nuovi, l'hanno ricomprato alla Liberazione e hanno riaperto solo dopo i lavori. Un vero Merselkebir si è trovato qui dentro quando siamo venuti a visitare, ha confidato il padrone a Maurice. Ha comprato tramite agenzia. Non sa affatto chi fossero né che cosa ne sia stato dei vecchi proprietari, salvo che sono sicuramente vivi, la prova è che vendevano. Ma da quello che gli hanno detto nel quartiere, il Merselkebir Doveva essere stata la vendetta di un collega perché imparassero a farsi troppa grana servendo le bistecche nascoste sotto le rape, le costole di bietola e i topinambur. Poco fa, quasi davanti a Lutezia, si è imbattuto in uno dei tre redivivi. Anche lui veniva a cercare notizie. Ha invitato Maurice a una commemorazione per i loro martiri. Ha detto i nostri martiri, esattamente come l'amico Samy diceva i miei uomini. Il numero dei martiri che appartiene alla famiglia del redivivo è ancora incalcolabile, ma già vertiginoso se, come fa lui, si mettono uno accanto all'altro i suoi compagni caduti qui nell'ombra a decine di migliaia e i suoi compagni caduti in piena luce da tutte le parti e a milioni. Da Brest a Brest-Litovsk sono stati i nostri a dare la loro vita. Venga sabato a onorarli con noi a Pantin, la sera alle 9. Dopotutto, prima di piantarci in asso, lei ha pur ciclostilato un po' per noi, vero, mio caro Gautier? Ha soggiunto, battendo paternamente sulla spalla di Maurice, prima di allontanarsi a grandi passi. Gutmann, ha voluto rettificare Maurice, ma troppo tardi. Il redivivo stava già scendendo i gradini del metrò Sèvres-Babylon. Non andrà sabato sera. Neanche Villeneuve. D'altra parte, sabato sera c'è una festicciola nell'appartamento. Si inaugurano i denti, come ha annunciato Villeneuve. Un amico dentista gli ha rimesso i denti davanti. È venuto a provarglieli stamani. Sono magnifici. Non gli resta più che disabituarsi a mettersi la mano davanti alla bocca quando ride o quando sorride. Laggiù lo facevo non perché mi vedessi, ma perché vedevo troppo bene i buchi nella bocca degli altri, ha spiegato. È la sola cosa che abbia detto sul campo di concentramento davanti a Maurice. No, ha anche detto che laggiù, con gli ebrei, ha detto i suoi, i più maltrattati erano i russi e che quelli, poveretti, erano proprio sfortunati da ogni parte e che non sarebbero stati molto più fortunati tornando a casa dove non erano certo disposti a perdonargli di essersi lasciati prendere. È tutto quello che ha detto su laggiù. Ma già l'indomani del suo ritorno ha chiesto a Maurice di raccontargli i particolari di quello che è proprio il solo a chiamare l'attentato. Gli ha confessato che non aveva mai pensato neanche per un attimo che Maurice potesse esserne stato l'autore quando ha trovato il suo letto e la sua camera vuoti la mattina, solo ripensando alle sirene dei pompieri che l'avevano svegliato durante la notte. Poi, venendo a sapere dell'esecuzione di tre ucraini della Gestapo, aveva collegato le due cose con la sua scomparsa. Non ne aveva mai parlato a nessuno. Pensava che anche ora conveniva mantenere il segreto. Tutti quanti avevano parlato troppo e tutti quanti si accingevano a parlare troppo di nuovo. Quella mattina ho creduto dapprima un'amichetta e l'ho giudicata imprudente, futile. Pronto a tagliare la corda e un po' ingrato. Mi perdoni. Maurice è arrossito. Le amichette. È tornato a trovare il suo medico alla Salpêtrière. Gli ha parlato del sottobosco, della gonna rossa. Ha avuto l'aria di interessarlo, di sorprenderlo piuttosto. Gli ha consigliato di innamorarsi, ma di tentare prima con una prostituta. Maurice ha lasciato perdere, in altri termini, non si è innamorato. Quanto al seguito o all'inizio del programma, non ha nemmeno pensato, giacché quello che lo preoccupa di più è appunto di non essere innamorato. Non ha neanche scritto a Londra per sapere se la giovane Annie esisteva ancora. È strano il disamore. Neanche Zazà è innamorata. Non ama più e basta. Ma lei, Zazà, ha fatto un figlio e forse ne farà un altro, forse altri. Stasera, prima di cena, sa già che Villeneuve gli farà raccontare della montagna e dei bambini con la mantellina, di Zazà, la neve, gli arnesi, Marcel e la torre dell'astronomo. Desidera sentire solo storie semplici, è stanco della storia e di quella del mondo, per ora, in ogni caso. Un giorno Maurice gli chiederà di ascoltare la storia di Valodia, ma è ancora troppo presto. È stato sul punto di cominciare l'altra volta quando Villeneuve si è messo a parlare dei russi, poveretti, ma è talmente lunga e complicata quella vecchia storia per un uomo così stanco che Maurice ci ha rinunciato. Eppure sa che probabilmente Villeneuve è forse il solo saggio che conosce essere in grado di ascoltarla, di capirla e di crederci. Pare talmente poco credibile oggi che perfino Maurice a volte si chiede se non l'ha inventata o anche solo un tantino rimaneggiata. Oppure si chiede se non ha attribuito un'importanza esagerata alla vita e alla morte di Vladimir Gutman, scomparso nei dintorni di Irkutsk tanto, tanto tempo fa. Forse le sue vecchie ossa di giovane ergastolano non meritano più che l'oblio, oggi che il peso dei cadaveri di autentici eroi le hanno schiacciate per sempre. Forse è questo che si deve fare oggi, dimenticare. Allora vorrebbe dire addio, Valodia. Sono talmente pochi a conoscerla la storia di Valodia. Zazà se l'è portata via, ma sicuramente la perderà per strada. Chissà se Robert la riporterà. Domani, fra 8 giorni o fra un mese, presto comunque, dato che torna. Lui è sicuro che torna, l'ha scritto, su 3 pagine che potrebbero intitolarsi Il giro del mondo di un disertore in 2000 giorni. Si racconta, se così può dirsi, passeggero clandestino, ovunque sarà passato, ora sguattero, ora ballerino mondano, archeologo, seminarista, professore di francese, mercante di sari, trafficante d'alcol, guaritore, segretario particolare e piantatore di kumquat, saltando di peschereccio in zattera, di zattera in piroscafo, di piroscafo in yacht, in piroga, in giunca, in canotto e perfino nella stiva di un cacciatorpediniere. Avrebbe attraversato tutti i mari e fuggito tutti i continenti dove c'era sempre qualche guerra che si sforzava di raggiungerlo. È un racconto incomprensibile, ma bello come l'Eneide, i fumetti dei Pienichel, Candido e le avventure di Lavared, rivisti e rilegati da Bless Andrar. La lettera si conclude con un segue telegramma. Sulla busta c'era questo indirizzo: per Maurice Gutmann, per ogni evenienza, libreria Villeneuve, Rue de Seine, Parigi, Francia. Il telegramma non conteneva che una frase: non esiste il Black Cat a Shanghai. La lettera e il telegramma erano stati impostati a Zurigo. Fine.